30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. L'ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari ha stimato che circa 20.000 keniani sono in fuga verso la vicina Etiopia dopo l'inasprimento degli scontri tribali a Moyale, nel nord-est del paese. La lotta tra i clan rivali di Borana e dei Gabra, da anni in competizione per il controllo dei pascoli e delle risorse naturali, ha già provocato nelle ultime settimane diverse decine di morti, secondo quanto affermato nel rapporto pubblicato dalle Nazioni Unite. Buonasera cari ascoltatori, torniamo a parlare di Africa questa sera. Settimana scorsa eravamo di fatto tra il Sudan e il Sud Sudan. Oggi, come avete capito, non andiamo molto lontano. Insistiamo su una regione che di fatto è in qualche modo anche il motore di tutta una serie di cicli e di flussi di immigrazione che poi in realtà noi realizziamo quando ormai sono nello stretto e nel canale di Sicilia. Questa sera dunque ripartiamo dall'Etiopia, ma vedrete che non rimarremo solo in Etiopia. Due ospiti che fanno parte di una storica, posso ben dire, ONG italiana. Mi riferisco al QAM, Medici per l'Africa, che da Padova da anni svolge appunto un ruolo di formazione che trasferisce l'intervento sanitario nel continente africano. Ecco con noi questa sera Don Dante Carraro, direttore di QAM. Buonasera. E il dottor Giovanni Putoto, che è responsabile della programmazione del QAM. Buonasera, dottore. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, Don Dante, cominciamo da lei. Quando dico che certi luoghi sono di fatto degli inneschi, dei motori, esagero un po' o è d'accordo? Perché quando si parla dell'instabilità regionale nei confini africani, in realtà è un'instabilità che trascende, che supera regolarmente i confini. Sì, quando ci sono dei conflitti, quei conflitti si allargano e le tensioni etniche o legate a risorse minerarie che magari ci sono o a questioni di potere si allargano, e il problema, come in questo caso, dei rifugiati o chiamati altrimenti displaced, è un fenomeno che per noi QAM, appunto Medici con l'Africa, riguarda e va a toccare una buona fetta dei paesi dell'Africa subsahariana dove stiamo lavorando. Vale per il Sud Sudan, così come valeva adesso un po' meno per l'Angola, ma come lei accennava, tutta la zona del nord Uganda, nord Kenya, sud dell'Etiopia, per non parlare poi della zona che va verso la Somalia e così via. Quindi è un problema, come dice lei, proprio di assolutamente transnazionale. Ecco, in questi anni ovviamente la crisi si riflette, la crisi che parte dagli Stati Uniti, che atterra in Europa, poi si riflette su tutto quello che è il sostegno finanziario, la capacità di intervento. Parliamone subito, Don Dante, in che modo voi avvertite questa crisi nella vostra azione? Ma non c'è dubbio che paradossalmente, quando c'erano due blocchi distinti, l'un blocco era interessato a finanziare determinati paesi, l'altro blocco era interessato a finanziare l'altro. Nel momento in cui c'è stata uno mischiare le carte e a rompere gli equilibri di interesse internazionale, l'unico criterio che rimane e che attualmente vige è quello di interessi legati a risorse minerarie, come prima accennavo, o rispetto a determinati materiali che solo in Africa si possono trovare. Non mi riferisco soltanto al petrolio e al diamante, ma per esempio al silicio, a tantissime altre materie che sono. Questo è il criterio unico che oggi esiste, l'interesse finanziario economico su determinate cose, e questo ha escluso e sta escludendo tutto il grande tema della cooperazione. mentre una volta la cooperazione poteva essere un elemento di stabilizzazione, un elemento di sviluppo di quel paese pure in quell'area, oggi invece l'interesse unico è questo, e chi come noi ha fatto della cooperazione la propria mission, il proprio mandato, come dire, sente fortemente una crisi che si aggrava nel momento in cui c'è una crisi finanziaria così pesante come quella che stiamo vivendo. Chiarissimo, l'elemento sanitario per voi, come per altri, resta centrale. Allora ci dica perché e che cosa fate per chi appunto non conosce l'attività del QAM. Certo, noi partiamo da un principio di fondo che è quello che ci ha fatto nascere 62 anni fa, nel 1950, che ci ha sempre governato in questi anni, che continua a ispirarci, cioè profondamente convinti che la salute sia un diritto umano fondamentale e non può essere in nessun modo un privilegio per pochissimi privilegiati che se lo possono permettere. Per questo nei capisaldi del nostro lavoro c'è il principio proprio dell'accessibilità ai servizi, che vuol dire rendere anche i più poveri a rendere anche per i più poveri accessibile il servizio sanitario. Poi come approccio di lavoro, ovvio che il nostro è un approccio di sistema, quindi l'obiettivo che abbiamo è il rafforzamento dei sistemi sanitari locali, in modo che dopo uno startup fatto con noi e un accompagnamento con noi possano camminare con le proprie gambe. Attualmente stiamo lavorando in 7 paesi dell'Africa subsahariana, i più poveri, stiamo sostenendo 15 strutture ospedaliere con i distretti sanitari collegati, con gli health center, i centri sanitari, ripeto, che gravitano attorno alle strutture. Abbiamo circa un centinaio di operatori sul campo, ed è compresa la formazione ad alto livello che è su tre sedi universitarie, una in Mozambico, una in Uganda e un'altra ad Addis Abeba. Ecco, tanto per dare la formazione, il quadro, un lavoro che, come avete sentito, va avanti da molti anni. Dottor Putoto, che relazione c'è tra la salute di qualità e il fatto che quando sentiamo, per esempio, che qualche giorno fa viene dichiarata la fine della carestia, no, nel Corno d'Africa, c'è quasi, come dire, bene, è passata, quella crisi è risolta. Ecco, in termini sanitari, che cosa vi trovate di fronte? Beh, noi ci troviamo di fronte un quadro in cui i bisogni della popolazione, in particolare delle categorie più vulnerabili, le donne e i bambini, sono quelle al centro dell'attenzione. Per dare risposta a questi bisogni molto semplici, come un'assistenza qualificata al parto, è necessario che ci siano degli ingredienti basilari. Uno di questi è che ci sia un servizio sanitario, delle strutture sanitarie, alcune molto semplici come delle maternità, anche in contesto rurale, fino a degli ospedali, che possano erogare servizi in situazioni normali, ma anche di emergenza, come provvedere un taglio cesareo. Tutto questo richiede la presenza di strutture, di personale, di equipaggiamenti e di competenze. Bene, in contesti come quelli che sono stati citati, e purtroppo in molta parte dell'Africa subsahariana, questo non è ancora il quadro ordinario. E il focus del nostro intervento sta proprio in questo: creare i presupposti affinché tutte le patologie, le cause che si possono prevenire di morte possano essere eliminate, creando le condizioni perché le istituzioni e le comunità locali possano portare avanti questi servizi. 30 minuti in cronaca. 40 euro è il costo medio per assicurare l'accesso e il parto assistito, 100 euro per un cesareo, 8 euro per assicurare un parto in un centro di salute, 5 euro il trasporto per raggiungere una struttura sanitaria. Questi sono i costi. Parliamo dunque di cooperazione, parliamo di civiltà, direi in generale, parliamo di costi. Allora, come vi ricordo, questa sera i nostri ospiti sono Don Dante Carraro, che è il direttore di QAM Medici per l'Africa, il dottor Giovanni Putoto, che è responsabile della programmazione del QAM, appunto. Dottor Putoto, dunque la questione dei costi è centrale e naturalmente da quello dipende anche la vostra capacità di operare. È proprio così. Noi ci siamo focalizzati sull'accessibilità al parto sicuro, quindi di qualità, da garantire alle mamme. Non è più tollerabile, è contro il diritto, ecco, alla salute di cui si è parlato prima, che oggi continuino a morire per una non patologia come il parto moltissime donne perché non hanno accesso a queste strutture sanitarie. E gli ostacoli che impediscono alle donne di accedere sono molti, sono stati citati: le distanze, le barriere finanziarie, qualche volta anche delle credenze locali. Noi vogliamo intervenire su questi fattori, appunto togliendo le barriere finanziarie. Noi in questa iniziativa, che innanzitutto coinvolge 4 ospedali di 4 paesi diversi, la Tanzania, l'ospedale di Tosa Maganga, l'ospedale di Borisso in Etiopia, l'ospedale di Aber in Uganda e l'ospedale di Shulo in Angola, vogliamo togliere qualsiasi forma di ostacolo finanziario, nessun ticket per le donne che vogliono partorire in questi ospedali. Non solo, vogliamo anche che se ci sono dei problemi di trasporto, che le famiglie non debbano sostenere anche questi costi indiretti, perché ahimè, per essere pratici, purtroppo, quando le famiglie devono sostenere costi di questa natura, vanno incontro a delle spese catastrofiche che spesso riportano da una condizione di povertà a una condizione di miseria. Ecco, forse un elemento che vale la pena ricordare e sottolineare, come certe dinamiche del costo sanitario siano in certi paesi del mondo davvero devastanti. Don Dante Carraro, una domanda così quasi inevitabile: come mai in un tempo di crisi economica come stiamo vivendo qui nel primo mondo ricco dobbiamo preoccuparci di sostenere di fatto l'aiuto finanziario e sanitario in Africa? Qui è chiaro, mi rivolgo da una parte all'uomo di chiesa, ma anche al Veneto, che ha un forte senso pratico. Sono due elementi che sottolineo. Uno, non c'è dubbio che i fondi così della cooperazione, in parte legati alla crisi, in parte per altre scelte che vengono fatte, eccetera, di fatto sono scomparsi. Ora, noi, a fronte di tutto questo, a fronte di un bisogno che il dottor Putoto prima evidenziava, ci siamo detti non si è mai poveri abbastanza per non essere solidali. Ecco, il CUA è nato nel 1950, appena finita la guerra, il contesto era il Veneto, non quello di oggi, di certo, post-guerra, eccetera, quanta povertà, quanta miseria, ecco, eppure eravamo solidali. Il CUA è nato nel 1950, in piena crisi, e da lì ha trovato le sorgenti per continuare, per voler essere solidale nei confronti dei più poveri. Ecco, questa anima ispiratrice vogliamo continuarla anche oggi, per questo ci dà il coraggio di farlo, e lo facciamo a partire dal Veneto. Ecco, il Veneto è una regione interessante da questo punto di vista, o contraddittoria per certi altri, no? Lì dove si annida magari il razzismo più gretto, è anche la culla di una solidarietà che ha radici profondissime e radicatissime nella gente, nel territorio, nelle imprese. Assolutamente, una solidarietà anche, mi permetto di dire, efficace. A questo proposito vorrei chiedere al dottor Putoto in che modo salute, prima ho detto che insomma il conflitto, l'incertezza è un motore appunto di flussi migratori, eccetera, eccetera, in che modo assicurare la salute è viceversa un motore di solidità e di stabilità di un paese africano oggi? Guardi, ormai è consolidato il fatto che è stato documentato, non solo dal punto di vista scientifico, ma basta anche una riflessione interna, italiana, che appunto abbracci nello sguardo lo sviluppo dell'Italia negli ultimi 50 anni. Pace, popolazioni in buona salute sono i presupposti per lo sviluppo, sia lo sviluppo delle persone che lo sviluppo economico, la crescita economica. Ci sono paesi africani, non solo, ma anche dell'Asia, alcuni stati dell'India, molto poveri che hanno puntato sui sistemi sanitari di welfare, sulla sanità, e stanno producendo dei risultati in termini proprio di salute e di crescita economica. Ghana, Tanzania, lo stesso Sudafrica per alcuni aspetti e così via. Qui si tratta da un lato appunto di abbracciare questo mandato che ha un fondamento etico, ma secondo anche di essere pragmatici, realistici e pensare che società sane sono società che crescono, sono società che collaborano, sono società che escono anche dalla povertà. In questo senso ci sono segnali incoraggianti in alcuni paesi, oltre a quelli citati ricordo anche Ruanda, ma ci sono paesi che non stanno facendo grandissime difficoltà e grandissimi sforzi, tra questi quelli in cui operiamo noi. Dunque, uno sforzo che tra l'altro mi fa piacere ricordare ha prodotto anche un libro che è un altro modo per sostenere l'attività del QAM, che ha un bellissimo titolo, Il bene ostinato, l'ha scritto Paolo Rumiz, perché questa ostinazione che attraverso l'opera appunto di più di 60 anni del QAM poi ritroviamo non solo nel QAM, in organizzazioni, nell'ONG italiane, è davvero quell'ostinazione, e qui possiamo dire molto veneta, nell'insistere anche di fronte alle delusioni, anche ai fallimenti che questo tipo di percorsi di fatto implica. Don Dante Carraro, in conclusione, 60 anni, anzi 62 anni alle spalle, proiezione davanti, per voi cosa c'è? C'è questo progetto a cui il dottor Putoto accennava, in particolare, oltre al resto dell'attività. Abbiamo 5 anni di impegno. In questi 5 anni noi ci siamo dati un obiettivo concreto, anche in questo caso da buoni veneti, passare dalle attuali 16.000 mamme che attualmente partoriscono ogni anno in queste 4 strutture ospedaliere, e in 5 anni raddoppiarne il numero. Cioè dire, noi non pensiamo, non abbiamo nemmeno la pretesa di rivoluzionare il mondo, abbiamo la pretesa appunto ostinata e anche come dire proprio dignitosa, ecco, per dare dignità proprio al lavoro che facciamo, questa pretesa ostinata di in queste 4 realtà di raddoppiare il numero di mamme che possano accedere in maniera gratuita a un parto sicuro. Si parla della vita, si parla del futuro, si parla veramente del nucleo di un popolo, di un paese, di una civiltà. Ecco, garantire questo a noi sembra che sia proprio quello che dà senso e significato al nostro lavoro, ed è anche il programma che ci diamo da qua ai prossimi 5 anni. Grazie a Don Dante Carraro, al dottor Giovanni Putoto. Vi ricordo www.qam.org per tutti i dettagli, li trovate anche attraverso naturalmente www.radio24.it per conoscere meglio l'attività del QAM di cui questa sera abbiamo parlato, per conoscere meglio delle realtà che ci confrontano. Abbiamo parlato di civiltà, ma proprio nelle ultime frasi parlavamo della civiltà dei paesi che in qualche modo sosteniamo o della nostra. Questo è l'interrogativo affascinante di questa attività. Da parte mia e da Filippo Reggi in regia questa sera un saluto. 30 minuti in cronaca torna come sempre sabato prossimo a partire dalle 19:30. Buon fine settimana a tutti.